C'è qualcuno qua? Attenzione, dici. Hola. Hola, compañeros. 5-10. Avanti, chi è? Ehi, Nadal. Franco, ciao. Ciao, Fra. E allora, come va? Beh, trabiende. Non è periodo di grano ancora. E tu, tutto bene? Sì, c'ho un dolore, cioè non sto bene, no, in questo periodo. Insomma, intanto qualche acciacco. Anche io non è che sono in forma, però andiamo avanti, dai. Sì, stasera mi ho finito il computer. Me l'ho rifatto a nuovo, ne ho due così. Allora, stavo provando a rinnovarmi il coso della, come si chiama, sessione della pesca sportiva. C'è un casino, boh, tra speed e cose varie. Non sono riuscito a trovare la voce del rinnovo, boh, non capito perché. Prima era semplice, adesso è un casino. E io me l'ho rinnovato già. Prova con la carta d'identità elettronica. Non ce l'ho più quella lì. Quella lì mi è scaduta e questa che mi hanno fatto è di nuovo carraccia, una bucaria brutta. Perché con quella elettronica si può usare come lo speed, capito? Dovrebbe essere la stessa cosa, boh. Mi fa andare avanti, poi però nel menu a tendina non mi esce il rinnovo. Invece guardando le spiegazioni dove dovevo uscirmi. Mi riconosce, mi dà già il codice fiscale su in alto a destra. Non lo so, adesso vediamo un po', aspettiamo qualche giorno, diciamo che ci sia un problema di tecnico, dai, o di tempi, magari passa un giorno finché non ti registri. Non è cazzo. Infatti, prova a vedere perché magari c'è difetto nel server di loro, perché a me l'ha fatto entrare subito. Io la facevo sempre ogni anno, però senza lo speed, non entravo la mail, la facevo sia per me che per un mio collega che mi ha dato le sue credenziali, la sua mail. Quindi 3 anni facevo il rinnovo, adesso invece mi ha chiesto lo speed e è cambiato un po' tutto, dai. Io ho provato dal telefono, magari era meglio provare dal computer. No, io l'ho fatto col computer, la verità si dica. L'ho fatto col computer. Mi manca solo un pannello da piazzare in questo computer e 2 ventole, boh. La scheda video mi è arrivata oggi, dopo lunga e penosa malattia, insieme al cavo, e quindi l'ho piazzata già e tutto. Mi deve arrivare ancora un pannello dove ci sono, per metterlo davanti, no? Dove ci sono le prese USB, il microfono e le cuffie, così lo metto davanti, lo spinotto annulla quelle di dietro e mette quelle di davanti. Se no mia moglie si lamenta che... Allora, con le cuffie sei più silenzioso, dai. Cosa volevo dire? E quindi che scheda hai messo? Che scheda video hai messo? È una X, ma va, non mi rammento. 2 ventole c'ha che sono colorate con le luci RGB, bianca è come scheda video, è grossa è come scheda video. Già, potente, dai. Sì, però ci sono un sacco di marche, Nvidia, quella roba lì, boh. Ehi, allora non mi rammento cos'è, la duburbiazza duru lo driver. Ehi, me l'ho fatto, insomma, bellino il computer, adesso è bello ambroso. Se voglio mi posso mettere anche 2 di quelli SSD, di quelli M2, c'è nella scheda madre già il posto per 2 di quelli. Mi sono sempre aggiornato. Mio figlio è già... Vabbè, adesso è già qualche annetto, però era di quelli di ultima generazione, la scheda molto potente, perché lui fa anche gaming, quindi la scheda video deve essere potentissima. Sì, questa fa anche quello, anche il gioco, anche se io non gioco, così almeno libera il processore. Se ti metti a comprare roba buona, solo la scheda la paghi quanto un computer, Addirittura era arrivata anche difettosa, anche quella aveva due ventole, no? Il raffreddamento. Praticamente però una non stava funzionando. Allora abbiamo di nuovo smontato e c'era una lamella appena piegata che toccava, l'abbiamo addrizzata, quella male non si è bruciata. Infatti, Rosa Raventura era bloccata. No, questa è andata bene subito. Ehi, come la mia deve essere. La scheda video. Ma andrà bene meda. Mi hanno regalato anche un monitor 27 pollici che è bellissimo, si vede benissimo. Hai visto? Quindi a tenere due, mi hai detto, due computer. Sì signore, infatti adesso gli attacco il cavo all'altro, così si accende anche l'altro. Che c'ho due cavi nel monitor, no? Uno per la scheda video, che poi anche la scheda madre, aveva anche la scheda video integrata. E andava bene, solo che io gliel'ho messa dedicata, da. È una Tagubai la scheda esterna. È una Tagubai, infatti. Poi almeno così lavora meno il processore, anche se è potente. C'ha 6 core e 12 thread questo processore. Non è un giocattolo. Mi hai detto però ancora non hai l'SSD, quale non ce l'hai ancora? Uno l'SSD ce l'ho, poi c'ho anche due dischi meccanici dentro, che ho fatto, c'ho anche un altro sistema operativo in un disco meccanico, gli ho messo Linux in uno, e infatti me lo devo provare che è uguale a Windows, e l'uso veramente. Già te la cavi allora, vai. Se riesci a assemblare tutto, a configurare tutte le periferiche, tutto, dai. Sì, è già pronto, funziona in via. Bravo, bravo, dai. Invece a pescare non stai andando? No, non mi sento bene, no. Non so quando andare sul lugo, no. Esatto, ieri sera fammi due lanci lì a Mare di Furi, ma vento, anche freddo. Infatti ci sono un po' mal di testa, fanno anche musica. Lì ho quitato gli occhi, tutto il freddo e il vento che ho preso ieri, deve essere. Sì, sicuramente, caspittina, io non mi sento bene, mi è venuto un dolore dove mi hanno operato all'ernia inguinale, lì, cavolo, so, già una settimana, più di una settimana sono con questo dolore qua, dovevo fare un attacco e non c'è posto, dimmi tu. La solita sanità italiana che ti continua a dare a pagamento se vuoi fare la visita. Ma da molto ti hanno operato all'ernia? Eh sì, da molto mi hanno operato, saranno 2 anni da. Cosa ti volevo dire? Ma non ne ho mai sofferto di niente, avevo mi è giunto il dolore così, sono a forza di brufen. Dimmi tu, se no non puoi stare. Cosa ti volevo dire? Ma infatti non sto andando a nessun posto, sono tutto di graziato, tubo ciumari. Ma ehi, dai, come è venuto poi da questo in Nanda, Udurori? Adesso cerca di resistere un po', anche mia madre era un po' a dolore questi giorni. Anche lì a forza di brufe. Abbiamo fatto una lastra, nulla, non, dice, non c'è niente. Io addirittura per l'attacco ho chiamato a coso a quello che c'è in piazza Lessini e non me la può fare perché ci vuole il contrasto e loro col contrasto non ne fanno. A te l'immagini. E a pagamento questa 270 euro perché l'ha fatta Giulio a rinnovi di Rinuti, la Nigiama da palla e cazzo 270 euro ha pagato. A sonno l'ha imbigliato? Sì, non l'ha imbigliato a sonno, poveraccio. Si era dovuto a pappa così no, lunghi non finirani. No, dico a quell'ora, cazzo, boh. Era 9 di sera, boh. Allucinante proprio. Sì, allucinante solo, La volta che l'ho fatta io l'attacco così stesso, col contratto e tutto, un mese di tempo ci ho messo, perché me l'hanno fatta senza e col contratto. Sempre qua a Sassari, no? A quello di Pietrelcini, come si chiama? Urigola? Sì, ma deve essere, non lo possono fare loro il contratto, devi farlo in ospedale per forza. l'ultima legge è mugata. Sì, ma hanno fatto pagare esami di lusango pure quando dopo, perché dovevo fare la visita diabetologica, sono andato a pagamento per fare la visita oculistica pure, se no nuda. 38 euro gli esami del sangue me li hanno fatti pagare, a te l'immagini, perché la deve essere una regione, non li paga, quindi logicamente lo fanno pagare a te, pure se io ho l'esenzione non vale a un tubo. Io a volte li faccio da, come donatore, dai. Però, ma non tutte gratis, qualcuna, prima ti facevano tutte gli esami gratis, adesso invece hanno, anche loro hanno tagliato. Sì, hanno tagliato tutto nella sanità. A me mi sa che ci fanno, che andiamo a stare come in America, che se non hai l'assicurazione non ti puoi curare. Quello che vorrebbero loro. Certo, prima che ne prendevo mi sembra 250 grammi, poi 300. Poi 350, 400, l'altro giorno gli ho detto mi lasciate almeno tanto di arrivare a casa, l'hai scritto. Ma dimmi tu, a che punto se mi arrivendi, fra? Non ho parole, guarda. Non ho parole, proprio siamo in una situazione. Poi qua in Sardegna ancora peggio, Stanno, non stanno benissimo neanche in continente. Forse un po' al nord, mi qualche eccezione c'è. Ma centro-sud, isole, è difficile trovare isole felici, la sanità, boh. Forza, li mani si ne dovigliano indagliare invece di tagliare la sanità, questi ladroni. Ho visto, tanto uno è peggio dell'altro, qualsiasi governo entri, no, che pensano a ingrassarsi le loro pance. Infatti, anche su alle ultime regionali che hanno fatto non ci sono andato a votare così tanto per gradire, no? E uno me l'ha pure domandato, uno che da voi mi è andato contro e mi ha chiesto se lo votavo, sì, domani. Nuovo giro, altra corsa. Avevo già andato a buttarlo. E non ci vado più da oggi. Lei la faccia già non gli manca di chiedere voti a destra e a sinistra. Allora, uno che quando gli ho chiesto aiuto, che realmente mi serviva l'aiuto, l'ha dato a un altro invece di darlo a me, l'aiuto, capito? E quindi allora ho preso provvedimenti. Vabbè, a questo punto uno agisce di conseguenza. O anche non andare a votare non è che sia una cosa buona, che insomma, poi devi subire quello che scelgono gli altri. Mario, da, spegni il baracchino perché qua comando io. Questa è casa mia, ok. Ma io fai pure te. Dai, questa è casa mia e qua abito io e mi stai disturbando la chitarra. Ah, vabbè. Cuomane. Vai, drogato. Eh? O ti metto la portante e ti incenerisco tutto da qua a me. Ah, bello bene. Non parli adesso. Ma tu sai. Sì. Ok, po'. Ma poi parla il culo, drogato. Buocuo, ma ne vai. Ho fatto di quelle che avete avviabili, Lu. Messi Alison, non devi fare nulla. Zebone, la giavetta, accendi e passa la giura. Quanti giga ci vuole? Ma la fai, me la costruisci pure a me che mi serve. Oh, vabbè, una telefonata? Sì, vai, fra. Ce le ho già pronte. Se la vuoi una te la do. Cosa? Ce le ho già pronte. Ce ne ho fatto un po' di queste chiavette. Perché servono sempre. Fammelo sapere, quanti giga sono? Sono manni. Anche se bastano 4 giga, sono grandi come chiavette. Fammelo sapere, se vuoi fare una prova, ma c'è già anche la licenza. Come? C'è anche la licenza inserita. La licenza. Fa una cosa, quando vai in 5 minuti di tempo, vieni e ne va a vedere di Barcellona. Sono già pronte. C'ho anche una di Linus. C'ho. Me l'ho installato in un altro disco. Mi ho fatto il computer nuovo, Lu. No, Linus non mi interessa. Come si dice? mi serve avviabile, come stai dicendo tu subito, mi serve peraltro computer che non c'ha la, non riesce a la licenza. Magari domani sera quando esco la lavoro, se vuoi passo e me la presti, voglio fare una prova. Mi tiro posso vedere pure i roghi. Passa domani. Pura va, puoi passare, se puoi passare. Già ce l'ho qualcuna che le ho fatte, perché servono a me e quindi me le ho fatte, non si sa mai che io una si guazzi, ma non devi fare niente, mi senti, la USB quando è spento accendi e passa da solo. Windows 10 è. Io intanto domani sera quando esco da lavoro faccio un salto, ti chiamo e vengo. Io posso, posso alle 4 esco. Sì, vabbè, no problem. Già ce le ho. Se ce l'ho così che non ci devo fare niente, la inserisci. Cioè tu spegni il computer, la PC è spento, inserisci la penina e si avvia direttamente. Sì, non devi fare nulla. Le misure accendere il computer e tu basti direttamente. Ed anche mi puoi fare tutto questo di voi. Ti scegli quello che vuoi, Windows 10, poi puoi formattare il disco, tutto puoi fare da lì. Bella mossa, bella mossa. Ottimo. Ehi, poi te la faccio vedere sul mio, mi. Cazzo, che pazzo, me l'ho fatto nuovo adesso il computer, cazzo. Una giuduia va. Io ne ho due portatili lo stesso. No, io c'ho, non mi piacciono i portatili, capito? Uno l'ho prestato a un amico, ce l'ho il portatile mio, l'ho prestato a un amico. È bello quel portatile, e l'ho dato a un amico in prestito che non ne aveva computer. Sono finito oggi il computer mio, finito, quasi finito, devo mettere due ventole e il pannello per metterlo davanti dove ci sono le USB e le cuffie, mi deve arrivare quello, oggi mi arriva la scheda video e un cavo bar monitor. Ah, fisso? Sì, bello, c'è un monitor 27 pollici, tanto è bello. Che me l'ha regalato il vicino e così mio mi ha comprato i pezzi e me l'ho assemblato. Io ho capito, ma non lo so, ma non me. E questo puoi anche giocarci, perché c'è la scheda video, cazzo, un 220, un 320, cazzo. Se la sa tu, di chi di trasparente se l'hanno i bicchieri ruzzi pure. Fisso non c'ho posto io. Mi preferisco più portatile, più orientato con lo smoto, mi faccio la ventola, cambio la pasta da freddamento. L'ho finita, la devo ricomprare. Perché l'avevo prestata, mi ha ributturato. Cosa, Lu? E dico, la pasta da freddamento la devo ricomprare. Io ne ho, mi se ne vuoi. Non mi ha messo un villaggio buono, ne ho parecchia pure. No, l'altra lì, ma la compareggio mi si riva travaglio. Quando devo fare un computer, no, tranquillo, io me la compro. Andrà bene mela. Forse mi compro un coso, uno di quei dissipatori che non siano stock, perché adesso ci ho messo quello stock, già va bene, non è che scalda. Però me lo voglio mettere di quelli aftermarket, in modo che raffreddi meglio. È poco e veloce, cazzo, nella scheda madre c'ho il posto per mettere due SSD M2. Infatti secondo me andava a girare io, mi lo comprerei giù uno e l'ha giù visto nella scheda madre e l'altro lo lascio come archivio, questo che c'è il sistema operativo. E poi va giù a tre due dischi Drent, uno di Linux e l'altro da 2 tera che è come archivio c'ho. Ah, ho capito. Ho capito, bene, sto uscendo, sì? Sì, sembri qua. Aspetta. Che cazzo, mi sono tirato di attaccato. Aspetta, mio cazzo. Ok. No. Ma sono staccato. Mi cazzo. No, io sto uscendo sempre con due razzi. Se non hai bisogno, ma si può regolare la potenza qua, ma 2 watt va bene per Sassari. messo pure la ISO di Windows 10. Se abbiamo un disco l'abbiamo masterizzato, che è mai più fatto pure un disco. Abbiamo scaricato proprio la ISO, mi capito? Dal sito della Microsoft. Aspetta che devo andare a finire. Come ti accudi da me moglie, subito si buona mangiare su cani. Oh signor, vai faratemi, a chi l'ha chiamato una padrona. Ehi, ehi, lui ha trattato mangiare il cane, guarda. Dove arriva poi? Non sta lì. Quale regalo, una chicca da Natale. Carina, cosa si guarda, senti il suono, se ti piace. Devo cambiare la chiavetta. Elettrica, acustica, c'è un amplificatore, con dell'acciaio. Io ho capito. Sente bene, boh. Che ti fa male? Caccio fibanale 4 kg di lira avvicinate via questo furgone naso. E se non siete persuaso in culo mi chiamano su naso. E allora bisogna fare così quando lo dice venerdì. E beh Natalino. E beh Antonildo. Allora come andiamo? Bene, sì. Bene, un tubo che sono addolorato. Cazzo, non me lo dire a me, guarda. Sono addolorato Simona. Anzi, Simona c'ha più che altro problemi di coso. Mangia e a volte è diarrea, a volte è normale. Ehi, c'è il tempo, Mamma mia, sono a pezzi io. Mi è venuto questo dolore dove mi avevano operato all'ernia mia, all'inguine. Cazzo. E so un paio di chiedi così, a forza di brufen. Ah, ok, da me era venuto il dolore all'inguine perché c'avevo aria più che altro, capito? Mi ha dato lo spirifen, come si chiama? Antidolorifico, mi è passato dopo 3 giorni. Perché stavo mangiando carne, pollo, poi fa tutta aria, capito? Mangiavo di tutto, mangiavo. E poi diciamo quest'aria, cazzo, di un fianco, non capivo cosa diavolo era, all'inguine. Perché è tipo crampi. Perché mi ha detto il medico, dice, prendi questo, dice, vedrai che ti passa subito. Un paio di giorni ti passa, così ha fatto. Ma sai che non sia chissù, non lo so, cazzo, mi è venuto questo dolore, cosa vuoi che ti dica? Prenditi lo spirito che ti fa subito effetto, ti calma il dolore, ti calma. Anzi, lo spirito, aspetta che te lo dico cosa devi comprare, aspetta un secondo. Me l'aveva dato a me il medico mio, sono delle pastigliette da succhiare, sono piccoline. c'è fuori il finocchietto, aspetta che ti dico la marca così te la prendi. Guarda se chi sia chi su bru più o meno. Cazzo, ma sono con questo dolore, cazzo, tipo crampo, no? Tipo crampo che facevamo, si chiama spasmo X ide, c'è scritto. Capito? Spasmo X ide. Sono 20 compresse. Poi aspetta, vediamo un po'. Come devo c'è scritto? No, mi sembra che non le paghi, sono mutuabili, Non le paghi. La dottoressa, glielo dico, che c'ho questo dolore qua. Ma così mi basta, dice forse pure lui ce l'aveva. E chi? Antonella. E beh? Dice che può essere aria di quello che mangi. Ah. E ti viene questo dolore qua. A me aveva dato questo. Infatti è passato dopo due giorni, è passato. Mi ha telefonato l'altro giorno, Andrea mi ha telefonato da Cagliari, ci è finito a pronto soccorso l'altro giorno, problemi cardiorespiratori, mi hanno portato lì e gli hanno dato la cardiospirina, mi scioglie il sangue. E chi però, Antonio, che non l'ho capito chi era? Andrea Maricomio. Ah, ho capito, cazzo. Hai capito? Mi ha telefonato lui, mi ha fatto una videochiamata ieri, mi ha detto che è malattia e che ha avuto problemi di cardiorespiratori, stava lavorando e gli ha detto che è venuto questo dolore di petto forte. E ha dato di Abruzzo e gli ha dato la cardiaspirina, gli hanno dato per sciogliere il sangue, capito? Sì, io la prendo ogni giorno, figurati. Come mangio, a pranzo me la devo prendere. La cardiaspirina, sì. Chi sapevo. Quasi grattendi. Ciao, bello me. Gli ho detto, se il fatto che hai avuto, magari hai lavorato, gli ho detto, lì a Cagliari, e a caldo e freddo, gli ho detto, ti è venuto una giratito, sì, gli ho detto, vedrai. Ti ha fatto quello che è successo a me, gli ho detto, tanti anni fa. Che me ne sono fatto quasi un mese, sono riuscito a cavarne piedi dopo due mesi. Avanti, fra. Mi ha arrivato un messaggio, ben entrato, io al telefono, quindi ero in pausa. Chi c'è rimasto, Antonè? Natalino? E Luca c'è ancora? Boh, sapevo che c'era Luca, la verità. Ho sentito Natalino e parlo da solo. Non so se c'è Luca o chi c'era. C'era Luca, chissà che fine ha fatto. E qua uomo, è andato. Mi è andato via. E allora, c'è un cuocuoma, ne. Sta pensando a fare ciucucciù, altro è sotto. Saga ruba che è giovane, Antonè, se non fa di bicio. Lo so, io ormai sono arrivato a, come si dice, quello che c'hanno le donne, quindi a un certo punto bisogna usare la grattugia. Un casino, c'è aspirapapa, non si intende nulla. E dove? A casa mia, no. No, a casa mia. Ah, casa tua, io la tua moglie di saccare la aspirapolvere, cosa vuoi che mi credo? Straccia di capo, così mi picchia. Adesso stacco la presa e la frusta col cavetto. Così poi passare la giornata tutto di denuncia, vai in galera, cazzo, lascia belli, a tutti i denti che ti sono cambiati. Pensa come andare a scuola e ti picchia la maestra. Una volta ti poteva picchiare, adesso se ti picchia vai in galera. Ehi, ma sta a dire che eri incapace di intendere di volere, due giorni sei già fuori. Ah, che quello è vero, oppure, non lo so, qualcosa la se ne inventa, hai visto gli zingari? Lui mi ha riportato a fuori, non è attiva, se è un nuovo fuori. E allora, ok, dai. Tutte incinta sono, cazzo, quelli fanno un figlio ogni anno. ogni anno fanno un figlio adesso, e noi paghiamo reddito di cittadinanza e 12-15 figli. Cosa vede, ecco? Allora, con la città così non gli puoi fare niente, neanche in prigione forse le puoi mettere, boh. Tranquillo, già se ne vedo dei figli, sentato se fanno le... Siccome sono la maggior parte di esso, se ne vado in Romania, capito? E i figli se li vendono lì quando sono in città, devono partorire, partorisco in Romania, cose del genere. Si vendono i figli, non fa bene, cazzo, 25-30 figli, non ce la fai. Poi, ne sono due figli e quelli. Doppia linea quadretti. E beh, fra, finita di lucidare. No, io sto messaggiando con un mio amico che è all'estero. Ci ho fatto delle foto con dei miei amici, quindi gli sto mandando i saluti anche da parte mia. Ok, andiamo a bere, andiamo a bere. Un'altra parte del mondo. Oh, yeah, yeah. Sì, andiamo bene lì. Andiamo bene. In Australia stai bene, non ti tocca nessuno lì, oppure in qualche punto che non ci possa arrivare nessuno. Questi sono a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Ah, mamma mia, che per carità, Santo Domingo, proprio quel paese lì, ragazzi. Il paese che chiedono i soldi è quello. Amicizia, quando c'era il lockdown, mi avevo scritto, quindi 16 ragazzi l'avevo scritto, tutte volevano soldi. Grazie, ma io ho detto, il bello che l'amore ti chiamavano, cose del genere. A un certo punto, ma quanto siete gli ho detto lì a chiedere soldi? Quasi tutto lo dice il paese, mi ha detto, come l'ha detto? Allora deve essere che cambi da me. Dipende, dai. No, questi che conosco io sono in gamba. C'ho anche, ho anche mangiato da loro, nelle loro case. Quindi, no, non sono case come le nostre, però lì non fa neanche il freddo che fa qua. Quello già lo so, lì se c'è il sud deve stare anche attento, come il Brasile, se ti vedo che c'è un sacco di sud ti ammazzerò pure. Beh, il Brasile è peggio, il Brasile è peggio, qua è un po' meglio, dai. Non devi ostentare, devi pensare che lì c'è molta povertà, quindi non devi fare lo spaccone. Eh beh, quello è logico. Ma ci sono molti italiani che hanno aperto un ristorante lì. Quindi dico sa che quello, non vedono che qualcuno comincia a incassare. E piacerebbe, capito, dei brasiliani. Ti seguono in banca per andare a versare i soldi, cazzo, che ti ammazzano, cazzo. Cazzo, fa vera, figurati. E sono in Thailandia, ho visto i filmati ieri di questa ragazza in Thailandia, c'è tutta una via, tipo il corso Vito Emanuele, tutto pieno di da destra a sinistra, tutto pieno di queste ragazzine, tutte nude, aspettando casi il corso. Se lo fai qui in Italia, ti arrestano. Infatti, lì prolifera il mondo della prostituzione, la colpa anche la nostra, perché c'è una richiesta sempre di ragazze sempre più piccole, addirittura sono poco più che bambine. Già lo so, ma io non ci sarei neanche andato per farmi invece in Thailandia, a parte devi fare il vaccino e poi tutto il resto, cosa, per andare a fare un ciucucciucco per 10 euro. E magari ti pigliava la sifilide, cose del genere, quando vieni in Italia sei morto. Lo so, c'è gente, diciamo, tra virgolette, ma un po' malata, che ha queste esigenze di trovare queste bambine. Come si fa? Noi non lo concepiamo, però purtroppo così c'è gente malata. Natali! Soia! E cosa stai combinando? Mi sta mettendo a mangiare mia moglie. Così mi corica che sono uno straccio oggi. Allora, dai, buona cena, saluto in casa. Sì, altrettanto. Ciao Antonello, anche a te io me ne passo in curretti. Vabbè che ascolto, dai, vi ascolto. Beh, così mangio. Adesso mi stai facendo sbagliare anche a me, mi vendi la fame pure a me. Riprendi, Antonello. me, guarda, io di solito a quest'ora la cena si muove, ma già c'è mangiare stasera, mi sono mangiato le 7 e 14 e a mezzogiorno quindi avrei preparato a mangiare, mi sembra che sono l'ospedale, cazzo. Quando mangi presto poi ti viene presto anche la fame la sera. Sì, non voglio parlare, quando nell'ospedale mangiamo il primo, il secondo, poi a cena, stavolta c'è la medicina, e quando lo faccio con tempo che, allora, ti parlo di quei tempi che furono, prima delle 7, tu immaginati, mangiavamo verso le 5 e mezzo, le 6, prima delle 7 mi veniva la diarrea, dovevo andare per forza in bagno, no, ma veniva alle 7 a trovarmi, 7, 7 e un quarto, 7 e mezzo, un incubo era per me, guarda. La medicina andava a saltare con un cucchiaio, cazzo, con tre ingredienti si sentiva, cazzo, come si chiama, tipo cantoni, cazzo, e si smeccava un dente, cazzo, nulla di tutto. Poi alla fine ci siamo, quando ero ricoverato lì, di fronte al 25, sopra l'ultimo ingoiata e c'era la dermatologia, alla fine ci siamo organizzati, eravamo 5 o 6, ci avevamo il vino, il coso, non il bocciolo del vino, no? Direttamente il bidone del vino. E dopo le 5 ci arrivavamo la pizza, mangiavamo la pizza, immaginate tu, ogni fame e ogni braghiera era rotta. Quando ci dovevamo fare l'esame del sangue, la mattina, no, ci sentiamo male, ci sentiamo. Vi trovavano tracce di sangue in mezzo al vino, vi trovavano, dai. Sto dicendo, me che io sono stato ricoverato 3 mesi, mi dirò. Figurati tu, dopo aver ricoverato, un giorno, io me lo ricordo sempre, è venuto un tipo di Umbria, che c'avevo ristorante, e faceva l'imitatore, tu immaginati, era un piscio, ti imitava tutto, chiunque e tutto, compresi anche come si chiama, i medici, faceva precise identico la voce, non so se mi divertivo bene, eravamo tipo una famiglia, tu immaginati, sei persone da una parte e sei dall'altra, con i denti, no? Tipo camerata. E poi venivano gli infermieri, non è che c'è un po' di vino, c'è un altro che abbiamo il vino, venivano gli infermieri e dobbiamo comere noi. In che reparto eri? Dermatologia. Lì, di fronte a come si chiama, ai giardinetti. Sì, di fronte ai giardini. Lì una volta ho fatto una visita perché c'era una specie di escrescenza nella gamba. Ho fatto la visita, poi mi hanno fatto l'intervento, me l'hanno programmato dopo 2 mesi. Nel frattempo me era uscita una roba da sola, quindi alla fine avevo la disdetta. Però mi ricordo che era lì, salendo sulla destra di fronte ai giardini. Là. E infatti io c'avevo tutto di lì, c'avevo il baracchino, avevo portato il salvatore, il tessere, eccetera, eccetera, diciamo, ero 3 mesi di figurati, non sapevo cosa diavolo fare la mattina e la sera, allora mi sono fatto portare la magnetica, il bipuccio di 21, già sono ricordato a Carino, c'è chi è a lui, figurati veniva, ma rimasto a trovarmi, veniva. Mi portava la birra a babbo, le bottiglie della birra a babbo, poi me le portava da APCB, fino a lì dove eravamo un bel briacone da babbo. Quindi, atto per dermatologia. Ma non male che te l'hanno fatto usare, piazzare il baracchino. Sì, l'ho attaccato la magnetica al letto prima, poi dal letto cosa ho fatto? Ho fatto una colunga e l'ho lanciata allo stipendio, come si chiama, l'armadio dove si mettono le cose, avevo messo tutto lì. E il baracchino c'è per comodino, immaginati. No, non l'ho fatto piazzare la verità, ma quando 4 giorni prima di andarmene a casa, perché ero guarito, è venuta la... come si chiama la ma non interessa. La primaria per esempio mi ha detto, allora lei dice che deve fare, usare il computer, ma ha detto, cosa ne so io, questo stavo in ideale, 1931, con la magnetica, figura, tipo, è il 2009. Rientravi da perduti tutte le apparecchiature. E io sto dicendo, e chi è Natalino? Io sono il capo Natalino. Ehi Natalino, sto mangiando adesso. No, io invece ero, se non avessi piantato io, guai, ero in ortopedia al sesto piano, lì sono stato parecchi mesi lo stesso, però non ci ho pensato. Beh. Lì in ortopedia, non lo so. Però si è fatto apprezzare, perché quel periodo lì in ortopedia ci lavorava a come si chiama? Giuseppe era infermiere lì all'ospedale civile di Sassari. Giuseppe ha fatto un momento, non ricordo il nome attivo adesso. Invece a quarto piano ci lavorava un altro infermiere di Proade, il marito di Lucia di Proade, Giovanni, guarda me la mente, non me la tipo. No, sono vari di vista, li ho conosciuti, però nel momento non sapevo che fosse un CB, capito? Io sono stato un che anno, negli anni 86 mi sembra, di 91 era quello. Giuseppe Pino si chiamava, adesso non mi ricordo il nome d'antico, già se lo ricordo la parina. G91. Ma non li ho conosciuti, capito? Cioè non li ho conosciuti come CB, sicuramente come persona sì. Senz'altro sì, perché infatti che era il gemello di quello che era benziraio di fronte alla standa. Erano precisi. Invece quando sono rientrato a casa, poi lì l'avevo attaccato con una prolunga, avevo portato l'antenna dentro casa perché ce l'avevo fuori, e dopo un po' però c'era bruciato il baracchino, sicuramente c'era uno stazionario, quella prolunga mi aveva creato un po' di stazionari, non me ne sono accorto che si era bruciato il finale. Sì, figurati, la prima se lo ricordo, mi ricordo che ti ho detto io, che parlavo da lì, tu immagina che noi la mattina, non so cazzate che ti sto dicendo io, ma è la verità, andavamo lì un po' più giù della dermatologia, c'era un bar, andavamo a prendere il caffè alle 9 del mattino, uscivamo tutti in quattro in pigiama, uscivamo a prenderci il caffè. Ma la cua? Alla cua, tutto l'ho fatto a tutti, alla cua, tu immaginati che lì dove c'era l'autolino ingoiata, allora c'erano le suore, lo sai, sì, c'erano le suore e ti vendevano la birra, il vino, quello che volevi ti vendevano. Complimenti per le suore. No vabbè, pensavo che non potevate uscire, invece avevate la possibilità di uscire, dai. No, io ero ingessato, quindi non potevo andare da parte. Ci portavano le pizze dei miei amici, cioè, la sera, la notte ci portavano la pizza a mangiare. Vabbè, la portavano. Ogni settimana mangiavamo pizza, no? Figurati. Ma ci divertivamo. Non è che stavamo male, stavamo bene. Figurati, eravamo tutti quanti accolizzati in TV. Ci pigliavamo il bacione del vino e ci mettevamo nel tavolo di pranzo. Uscivamo fuori per tagliare i bacioni del vino, i bicchieri. E mangiavamo tranquilli. Ma che fine ha fatto quel coma di Pomponio? Sono qua, buongiorno, beh, è arrivato Luca, dove cavolo ieri? Ci dice di poco fa. Io sono andato in cucina, coma. Allora. Vabbè Luca, stai combinando? Le buttelli di sopra. No, io lavorando stai. Giovanni. Andava bene, meglio così. Lavoricchiando, va. Meglio di niente. Qualcosa bisogna farla. Beh, così che stai lavorando. Almeno sei tranquillo. Invece lei si è già pensionato, se ne frega. E quello può dirlo forte. Pensionatelo, però non posso lavorare, già scritto dalla sede sociale, quindi sono tranquillo per vita. Capito? Quando c'è 67 anni mi ritiro la pensione sociale. E se la posso prendere in culo tutti. Molto ti manca, hai 67. Sì, dato 6 anni ancora, se ci arrivo, se non succede la guerra prima. Sì, 6 anni dai, ancora ce ne vuole una troppo, già sei giovane allora. E allora, tanto non sto lavorando in nessun coso qui che sono tranquilla, perché di solito quando uno lavora in un posto fisso fa, non è pensione, crepato dopo 2 anni. Ma è vero, anche da noi, quelli che se ne vanno. Hanno ragione quelli al governo che non vogliono andare in pensione. Per quello che ti sto dicendo, è vero, sai quanti ti sto vedendo io da un amico mio che c'ha l'agenzia funebre, tutti giovani, 40, 60 anni, 50 anni, io non mi ha detto una cosa del genere in vita mia, ogni giorno mi fermo, ma ogni arrivo, non è come prima che si scannavano per avere il morto, adesso non si scannano più, ormai c'hanno le 5 morti per ognuno, capito? Tutte le agenzie funebre che ci sono a Sassari, ce ne sono almeno una ventina, prima ce n'erano 5, 6, non di più. E voi ti danno la colpa a questi vaccini, bro? Non si sa chi credere. E la cosa l'ho fatto i vaccini. Ma cosa? Beh, non capisce dove vanno. Che è successo? Ma quando ho fatto i vaccini è così la questione. Anche tu la pensi così? Come mai non stai uscendo di radio? E il microfono è alla zona, perché l'apparecchio non usavo, questo Spider-Man del Favelta, bisogna che lo pulisco col CVC, e ha detto sta andando bene, ho messo la cotto subito, perché quando lo smitter è... capito, adesso visto che stava pompando. Non vedevi i picchi di modulazione? Esatto, sì, bravo. Io ne ho picchi di modulazione. Io voglio vedere, ci mancherebbe. Dove? Adesso è sceso di nuovo, guarda. Ora. Un po' di tanto lo fa. È la parecchia che non lo uso. Sai che attacco del V5? E così sono più tranquillo. Break, un attimo. No, io ho sentito un break, ma molto basso, eh. Attenzione, su 10 break. Mi senti? È un radio di Osino, ciao Daniel. Ciao Antonio, buonasera. Mi serve un controllino, sto usando un apparecchio qua un po' sordo anche di ricezione. Come sto arrivando di fare la gentilezza con la buonasera anche all'altro amico che ho sentito lì in frequenza su 10, dai. A te il cambio di nuovo, Antonello, a te il cambio. Segnale 9 per la radio si leggerete fuori. Centrami, se c'è una parecchia banda stretta di quel modello vecchio, centrami, così sei più tranquillo. E io modello vecchio, un apparecchio da base, sto usando il President, da base, President Washington da base, da te il cambio, non so se lo conosci, sicuramente sì, a te il cambio. Sì, già lo conosco, comunque sì, 27.078 per esattezza. Sei fuori frequenza. Anche per me è un po' alto. Ok, comunque l'altro amico lo sento male, sta arrivando fuori per questo, non so, forse è questa. Se fuori per questo, è lui fuori. A te ti sento benissimo qua, però il segnale ce l'hai molto basso con questo apparecchio, perché, ti ripeto... Adesso mi sposto a vedere. Apparecchio solo di ricezione. Ok, mentre l'altro amico arriva, diciamo, distorto, non è tipo fuori per questo, non so... mi direi, com'è adesso la... Ah, c'è il bidone riappreso. Cazzo, vediamo un po', l'ho messo... Adesso lo chiamo, aspetta. L'MPV5, a te il cambio. Attenzione, Osilo, se mi ascolti adesso. E adesso sì, avanti. Mi sono spostato di frequenza, perché tu sei un po' alto. Sì, 27.078 circa, dai. allora sta spostando di frequenza questo che sto usando io sicuramente. No, adesso lo sta arrivando bene, è una torre del 5 perfetta, però il segnale è basso, ripeto, questo apparecchio è sordo di recessione. Vabbè, comunque fare che funzioni bene. Ok, a te cambio. Aspetta, ma cos'è quel precedente 40 canali con le bande laterali? Esatto, bravo, quello lì. E allora, guarda che centrali, Ferri. Sistemalo, centrati bene. Vedete, tu centra a me. Cioè, anzi, devo centrare a me, lascia perdere a me. Centra a Franco. C'hai di, come si chiama, il clarife di lì. E quindi la manopola grande, quella per poter andare in bando laterale. C'è la manopola grande e la manopola piccola. Quella grande deve essere spostata, controllala. Lo so, c'è scritto clarife, quella lì, ma adesso bugia. Già ho sentito bene, ma magari sono stato male, provo a toccare quella lì. Ok. No, ci sono due manopole, una attaccata all'altra, sono una grande e una piccola, sono una sotto e l'altra sopra. Quella grande gira appena appena. No, no, non è a questo, no, Antonelli, di manopole, diciamo incastrate una con l'altra. Questa ha solo manopole singole, non è a manopole, diciamo, una incastrata con l'altra, ho capito. Solo manopole, manopole singole. Allora bisogna che te lo apri e te lo sistemi tu, quell'apparecchio lì, quel precedente 40 canali con le bande laterali, già ho capito qual è, già sono già lo smitter tondo. Sì, ma non c'ha 40 canali, questo ne ha 80 canali. Vedete che è stato modificato, ma in origine è 40 quello, non sto dicendo io. No, no, questo è uscito proprio 80 canali dalla casa, dalla fabbrica, perché qua c'è il pulsante che, diciamo, indica, adesso è sui 40 normali, se lo spingo in dentro è sui 40 alti, capito? Lo so, si può modificare, sto dicendo, con l'apparecchio, basta aggiungersi il 4, il discorso è quello lì. Lo so, l'ho avuto anche cosa con l'apparecchio di Giuseppe Leoncino. Quel presidente lì è bellino perché ha usato le basi a 220 eccetera eccetera, però è nato come 40 canali, dopodiché c'era la modifica da fare in quei pulsanti che ci sono rettangolari nel frontale e potevi fare la 40-80, già lo so anch'io quello, non ti preoccupare, che lo conosco l'apparecchio. Evidentemente la modifica l'hanno fatta male e quindi risulta leggermente fuori di frequenza in trasmissione, capito? Ma non vale a poco, bisogna che ti prendi un frequenzimetro e tramite il trimmer, dove c'è il quarzo, 10-240, ti fai la trattura e sei a posto. Oh, chiedo scusa Antone, devo chiudere, c'è gente, un abbraccio a tutti e due. Cosa che devo fare io, quella, diciamo, è cosa, c'è un lavoro che deve fare un tecnico, diciamo, che riesca a fare il lavoro, un tecnico, diciamo, autorizzato. Io di questa cosa non lo so fare, manco l'inferno ti devo aprire, diciamo, l'apparecchio, perché tanto non ci capire un incidente, quindi non tocco niente. Ovvero, evidentemente, non lo so, forse è stata fatta la modifica, magari era predisposto, diciamo, per gli 80 canali. Ok, va bene, comunque pare già funzioni bene, buh, non lo so, infatti non l'avevo ancora provato ancora, è un apparecchio che avevo già quasi un paio d'anni qua, però non l'avevo mai provato, adesso pare che già funzioni più o meno, pare così, ok, cioè, va bene, perfetto, va bene, tre consigli, vai e trovalo, tre consigli, sono tu, non ce ne sono più mi pare. Non ce ne sono più, no? Sì, a Franco si è spostato, ci stiamo dopo. Guarda che frequenzimetri ci sono ancora, a meno che non fai una cosa. Tu c'hai quell'amico tuo, ti ricordi quel animatore di Provotovers che tu modulavi? E lo dici a lui e te lo fai fare da lui. Il figlio dell'ex carabiniere, cioè, figlio del maresciallo, poi carabiniere anche lui mi sembra. Lui c'è a lui, modulava tutti i giorni, ti procurava gli apparecchi, lo chiede a lui e ti prepara la cattura, non ci vuole molto, non è questo granché, ma chiamata a frequenzimetro, in trasmissione, conosci l'apparecchio, lui è sentato conosce l'apparecchio bene, dove c'è il quarto c'è un trimerino piccolino di colore bianco. Lui gira appena appena con un cacciavite induttivo l'è fatta, non è che devi fare questo, tutta questa pappardella, questo qualche ricordo, almeno sei più tranquillo, per temi, no? Lo dicono per l'altro. Perché siccome con l'apparecchio l'ho avuto anch'io, lo conosco, e ho visto che si può anche modificare tanta canale, tu lì, solo che io non l'ho mai fatto perché non me ne fregava niente. Però ho comprato con l'apparecchio di Giuseppe Leoncino, tanto tempo fa, e ti parlo di se forse 4-5 anni fa. Poi da lui è passato un altro con l'apparecchio lì, e poi non lo so. Capito? Ok, perfetto. E io ho preso da uno qua, cioè qua, da uno usato l'ho preso, usato, sì, usato, vabbè, ovviamente usato l'apparecchio, questo qua non fanno manco più. Niente, vabbè, comunque momentaneamente già va bene così, tanto non è che lo usi, l'ho acceso così per farlo, ma non lo uso mai, lo tengo così per, diciamo, per scaramanzia, non mi frega niente di questo apparecchio, già ne ho altri. Vabbè, comunque ho provato questo per vedere se andava a fare, che già fa la pena, anche se diciamo non è granché, l'importante è che fa la pena, dai. Qua adesso mi è venuto in mente, portalo da Nanni Spano, già lo sai chi è, Gianni Bravo 2, lo porti da lui, gli dice guarda, sistemami, fammi la tatua dell'apparecchio, tanto lui il baracchino ce l'ha, c'ha un samurai, c'ha, quindi te lo può tranquillamente tarare in trasmissione, lui da come dice Vittore con l'apparecchio lì e te lo tarà a 5 secondi, già lo conosce lui, quel president. Fino a Nanni già te lo fa, già lo conosci. Beh, ovviamente lo conosco. Lascia perdere, ovviamente non so cosa vuoi, se mi comprava anche un altro apparecchio qua, adesso dice, ma stai scherzando, ho detto perché? Perché non ne faccio più, vai, portalo un altro, lui a fare, proprio lo portalo un altro, assoluto, mi stavo pure incazzando, ho detto, vedi, lascia perdere, lascia. E dice non me ne chiedere più, perché tanto io di queste cose non le sto più facendo e quindi non mi interessa manco, diciamo, manco avvicinarmi, manco a nessun apparecchio, basta, infatti stavo incazzando, ho lasciato perdere, mi sento anche un po' bevuto, ma ho detto lasciamo perdere, no? E infatti ci avevo pensato, ma dopo mi sono ricordato, ho detto se questo qua dopo si incazza, lasciamo perdere. Candelara Begosa. Ti ha risposto qualcuno, avanti chi è? Candelara Begosa. Molto male. A tua voglia. Entra, giù che devi entrare a un altro di intere. Candelara Begosa. Ah, se per ricordi, stessa scuola ti ripete, boh. Comunque, dallo a... Già le conosci Getro, non è che lo conosci, quindi qua ci vuole molto a fare la tattura, sono 2 secondi, insomma, hai capito, basta avere anche l'apparecchio Kenwood che lui ci abbia agganciato in ricezione, tu metti schiacci il portante, prendi, quando sei centrato non si sente più il fruscio, e l'è fatta, sei centrato e sei tranquillo, non è che ci voglia questa garantia, non conosco quel precedente, non è che lo conosco, l'ho avuto a casa per 2 o 3 giorni, figurati, si poteva fare la modifica, allora dovevi metterci il quarto, dovevi fare un attacco radio, no, non ne faccio per niente, gli ho detto, venditelo così com'è, gli ho detto, Giuseppe, se non ti piace più, poi sei pentito, la verità, perché era un presidente che è bello, la verità è bello, vado in 20 e ti dà 15 watt d'uscita. Non so quanto fastidia, però sì, un bellissimo apparecchio da parte, bello anche da vedere. No, questo va con la 220 anche con la 12 volte, perché dietro è predisposto, è predisposto anche per la 12 volte, infatti dietro c'è un commutatore che va spostato quando si collega, diciamo, alla 12 volte, commuti e va a 12 volte, capito? È solo che mi manca il cappetto, me lo devo, comprare adesso, vedo un po' se ce l'ha Tonino a Sassari e lo prendo, dai. Ok, tutto qua, è predisposto anche per la 12 volte. E io stavo sbagliando il microfono, scacciando, ma posso dire scacciando delle, cioè delle piccicosse, ho schiacciato il sabetto scacciando. Ma comunque te l'ho detto cosa devi fare, non costa niente. Guarda, c'è quell'amico tuo che è l'animatore, quello di promotore, che a lui 5 secondi te lo fa. Ehi, radioamatore, già radioamatore siamo, è meglio che faccia il radioamatore solo, non toccare niente è meglio. Ascolta, non toccare niente è meglio, ma se la parecchio fuori frequenza, secondo te cosa fate? Non tiene fuori frequenza, che discorsi sono? Ci vuole un cacciamento induttivo, non stai toccando nient'altro, c'è una vittina di colore bianco, la gira, quello che se una volta che sei centrato in AM, boh, basta, perché se fai frequenza anche la M, cioè se fai frequenza la M, tu figurati un bando laterale, in che condizioni sarai, però ti costa l'una, no? Non ci vuole questo granché. Non è gancia su di no, uia! Ah, quello che non sgancia su, ah, lo lavoro, gratis se lo vuole. E lascialo cantare, lascialo cantare al signore, lascia, io i soldi già li sgancio. E lui è il contrario, che non sgancio, ma è il contrario che lui che non sgancia lui. Ok. Perfetto, va bene, salutoni dinamite. Ok, perfetto, ti faccio pure il numerativo adesso. Ah, già mi senti allora, no? E allora, già mi senti, sì, va bene, e quello si chiama trimmer, ma fa, diciamo, regolare, ma io non... Se capita lo faccio controllare da chi di dovere, da chi, diciamo, è esperto di queste cose. Ok. Sì, buonasera, Popù. Buonasera anche a te, ben sentito. Fallo, è un trimerino piccolino, vicino al quarto, non ci vuole niente. Vabbè, tu di questa cosa non ne capisci niente, quindi è inutile che te lo spiego dov'è. Però fatelo fare da... dalla persona che conosci, a voi ne hai di persone competenti che conosci, quindi non ci vuole nulla, molto, ci vuole 2 secondi, bastate un tempo in ricezione, lì vicino se ce l'hai un tempo di ricezione, vai lì con un cacciavite induttivo, giri appena, fai 27.035.00, sei a posto, non devi più toccare niente, non devi toccare né altri trimmer, né niente, è una pizzeria quella. Comunque ti saluto Popò, saluto anche Urano, è tratto perché ti ho sentito lì dicendo che sono anni. Va bene, ragazzi, ti saluto, buona continuazione di serata, dai, ti saluto. Cordiali saluti, ciao Popò, dopo la marea di tempo, e buon divertimento. Vai con l'uranio, vai. Se non ti metti a piombo lì, a quanto arriva a 2? Ma vabbè, ciao. Ciao, bello, ci sentiamo. Stavi bene. Buon ascolto, buon tutto allora, non c'è problema. A te la ridi? Io me la ridi, sì. Me la ascolto di uranio. Cazzo, da 27.35 a 27.08 c'è differenza. Cioè, tu immaginati una persona che va a ballare laterale, lui è 27.068, a lui se lo trova, se lo mette a 7.075, se lo trova a 7.078. Quindi c'è un po' che per spostarsi, hai capito il discorso è quello lì. Centrare bene, e uno dice guarda che sei fuori lì, cioè in pratica te senti uno centrato, l'altro fuori, l'altro centrato, con quel tipo di apparecchi lì, e poi lo vedi che è un casino, quando passi dalla USB alla NSB ti trovi incasinato, lo sai, sembra bene un apparecchio, un altro solino, tipo quello che ho avuto io, lo rileggio, effetti 250, e la volontà è sempre girando a destra o a sinistra per poter fare collegare qualcuno, anche il 27 l'altronde, perché quella è abbastanza fretta, quindi senti solo una persona che c'è entrata. Se sei 27.035, non senti quello che c'è il barattino per dire. Normale che si faceva una volta tipo l'FM500S, il Big Round, 40 canali, 34 canali, erano tutti spostati di 1 kHz, 2 kHz. Non li sentivi più, dovevi stare sempre girare a destra, a sinistra per poter sentire uno o l'altro. Non l'ho mai sentito, ma sono orari che vanno 40 anni. Ci viene radio omologato, c'è lo 2001, bello, in banda. Vabbè, anni fa si deve anche usare il mio tutto. Abbi pazienza, dopo tu sei sempre il numero uno, è inutile, dai. Sempre simpaticissimo e cordialissimo come sempre, dai, una marea di tempo che non sentivo, ma forse sono entrato anche perché dice la parola, mi nomi, vabbè va, ti saluto, ma sono entrato così, ero secco di non accendendo, lì a queste esattie e poi entrato a salutare. Vabbè dai, ti lascio in pace, credo di chiudere, dai, ti saluto, se ti puoi copiare a te, a Uranio, ciao Popo. Ehi, ciao, saluto anche a te, non c'è nessun problema. Vabbè, oramai non so più di quello di parlare niente, però le cose me le ricordo, ho capito. La foto è l'abitudine di fare 20 anni che facevo queste riparazioni di cose del genere sui segreti dei baracchini, del FM500S, l'Intec 34 canali, come fare le modifiche anche senza inventarsene, tanto per dire. Oppure prima le mettevano sul coso, come si chiama quella, non mi viene in mente il nome, una volta vendevano, andavi lì all'edicola, prendevi quel giornale, cioè dove c'erano le modifiche per fare 34 canali, 40 canali, eccetera, eccetera, compravo quella, mi sembra che era la nuova elettronica, adesso non me ne ricordo. Ma comunque sia, da lì ho imparato, piano piano c'era uno schemino, faceva tutto, eccetera, eccetera. Perché ti ripeto che sei entrato, non c'è nessun problema. Fagli questa modifica a volare solo c'è in testa. Qua se arriva due, a quanto lo spetto, ce ne hai a fare anche omologati come si vende, messo quel carrallo. Oia, vedi di comprare l'amplificatore a loro lui, almeno se non la rivendo, c'ha 12 metri di antenna. Però devo chiudere, dai. Dai, un abbraccio, un forte, buon divertimento e tieni viva la frequenza, dai, 7-3, sei il migliore, ciao, e saluto di nuovo a lui perché io non arrivo bene, sento, c'è troppo propagazione, c'è troppo quaderno, eccetera, dai, ti devo salutare, devo andare, c'è la pasta che devo scolare, ciao ciao. Ehi, ciao ciao, stammi bene, ci vediamo alla prossima, avanti Orario. Sì, ok, salutoni dinamite, ci sentiamo più avanti, dai, ok, e anch'io adesso chiudo, dai. E Antonè, questi apparecchi volevo portarti, te l'ho detto, qua non c'è più nessun tecnico, ne siamo prendere qua, volevo spedirti voi e vanno controllati, dai, io non so solo questo, ne ho anche altri due da controllare, altri tre da controllare, in più anche questo. Questo è un affare che vanno tutti riallineati, sono vecchie macchine che vanno tutte riallineate, quindi non posso ho fatto il Galaxy 2, non faccio nomi perché non faccio nomi di nessuno, sai cosa ti dico? L'ho portato e quando l'ho ritirato il difetto che c'aveva ce l'ha ancora, non ha controllato niente, non faccio nomi chi è, ok? Quindi si spediscono fuori e basta. Con questo detto, Antonio, ti ringrazio dei controlli, delle due chiacchierate, delle due chiacchiere e ci sentiamo, dai. Per me è lo stesso, quelli che ti ascolto o anche quelli di. Ciao Antonio, ci sentiamo magari domani o quando sarà più avanti. Ciao ciao, da parte mia anche per me pure ti, ciao. Ok, ciao, ci sentiamo, stai bene, alla prossima Orario. Allora ci sentiamo, non c'è nessun problema, ciao ciao.